Yo, yo, Overkilla, Mad Boys, Pet MC, Simo X, e yo, è roba spessa, roba che spezza, boom, aha. Io vengo dalle viscere di Genova città. La prima regola per vivere è la regolarità. Sei una tegola, si sa, se non hai personalità. Se non hai perso, vai, alzati e combatti fra. So che hai perso il personaggio in cui ti impersonavi a palla. Sei uno scherzo e penso che chi sai prima poi viene a galla. La prendo scialla così lo capita in tanti. Chiedi affetto, è un'invasione di asini volanti. Io sono fuso tutte le ore, per quello mi chiamano fuso orario. Mi scuso, sentivo il tuo pezzo di lupo che apprezzo di più un rosario. Sei un missionario, sentirti parlare ti batte le schiaffi più criminali. Io sono più vario ma faccio più male, anche io do gli schiaffi. Ma schiaffi morali, siamo X, Fat MC, siamo MC, spezza. Così grasso il nostro stile se parli di rap. Andrew's Rai, campione al suono, ed esce un suono da campione. Tu sei un cartone animato, io animato da un cartone. È come chiedere una spincia a un bagno. Puoi pure esistere ma non ce n'è. Puoi pure esistere, vuoi fottere fre. Ma è come chiedere ora un uso in banca, amico, non ce n'è. Vie d'uscita non ce n'è. Evoluzione del rap, si vuoi fare. Tu ci provi e ci riprovi, ma sai già che non ce n'è. Yo, yo, Fat MC, Simo X, Mad Boys. Yo. Per l'evoluzione lessicale scrivo un testo e non ce n'è. Se Simo mi chiede il rap, metto una croce su di te. Perché parli di storie che spingi ma non ti vedo. Dipingi una tela vera, suicidati l'alter ego. Vengo mai diversi testi ma resti vicino, smetti. Se ammetti che dico il vero mi propsi quando mi senti. Alterni le vite e senti lacrime e divertimenti. Non ce n'è, come quando il vento porta i miei presenti. Sto lontano, Nightwalker, cresciuto per queste strade dove la speranza è viva finché il corpo non cade. Qua, dimmi di smetterla, non seguo l'etica. La mia dialettica mi porterà a tradire questo rap. Scrivo gli stanzi, le memorie battute di questo rap. Fat MC, Simo X, per il King non c'è rap. Yo, yo, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, no, no. Yo, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Yo, yo, yo, yo, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Non ce n'è, non ce n'è, no, no, no, no, no. Yo, yo, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. È come chiedere una spincia a un banco. Puoi pure esistere ma non ce n'è. Puoi pure esistere, vuoi fottere fre. Ma è come chiedere ora un uso in banca, amico, non ce n'è. Vie d'uscita non ce n'è. Non ce n'è, non ce n'è. Evoluzione del rap, Simo e Fat. Tu ci provi, ci riprovi, ma sai già che non ce n'è. Fat MC, Simo X, è perché? Simo X, Fat MC, è per te? Ah, ah, yo, yo, Mad Boys, Fat MC, Underground Shit. Peace, one love. Ha spiegato tutto Fat. Non aggiungo altro, man. Mad Boys X-Tape Volume 2. Ci avviciniamo verso la fine. Ora, Matto. Ora, Matto. Spera. Ora, Spera. Simo. Spera.